Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La commemorazione per l'eccidio di Porzus in primo piano in questa edizione, ma anche le sfilate di carnevale rinviate una settimana fa, uno slittamento che oggi consentirà a migliaia di persone di seguire le popolari manifestazioni di Muggia, Maniago e Azzano. Sentiremo da Pordenone come è andata la Marcia dell'Amore, 1300 i partecipanti, e da Gorizia l'iniziativa dell'Audiobus che ha dato voce a chi spesso non ce l'ha. Ampia la pagina sportiva nella seconda parte. Le 12 quasi 16 minuti, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Dunque, l'eccidio di Porzus, 79 anni dopo. Le cerimonie questa mattina tra Faedis e le Malghe per ricordare le vittime dell'esecuzione fratricida. Bolla, Enea, Toni, Cariddi, Hermes, Cagliari, Rapido, Aragona e ancora Massimo, Atteone, Roberto, Portos, Guidone, Barletta, Livia, Ado. Nomi di battaglia ed alcuni dei partigiani osovani trucidati alle Malghe di Porzus e al Bosco Romagno nel 1945 da altri partigiani comunisti. Ricordato a Faedis prima, poi alla chiesa di Canebola e infine alle Malghe, il più tragico fatto di sangue tra combattenti per la liberazione nella Seconda Guerra Mondiale 79 anni fa. Presente anche il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che prima della cerimonia ha reso omaggio anche alle vittime della strage di Torlano di Nimis, in cui 33 civili vennero fucilati dalle truppe tedesche nell'agosto del 1944. Decine di amministratori presenti, politici di destra e di sinistra. Questi avvenimenti devono dire qualcosa ai giovani per affrontare un futuro che si prospetta impegnativo, ha affermato il presidente dell'Associazione Partigiani Osop, Roberto Volpetti. Ha voluto lanciare un messaggio contro ogni ideologia, con riferimento al conflitto nella striscia di Gaza, Paola Del Din, medaglia d'oro al valore militare. Devono fare tutti un passo indietro, ha affermato, e Hamas deve farne almeno due, perché ha agito con un'ideologia che ricorda il nazismo e così non si può avere la pace. Faedis, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi si torna in maschera per le sfilate rinviate domenica scorsa a Maniago, il Carnevale dei Ragazzi, edizione numero 60, partirà alle 13.30. Ad Azzano si comincerà alle 14, doppio giro di sfilata con 15 carri. Ed è tutto pronto a Muggia per la grande sfilata di carnevale che vedrà in lizza i carri delle 8 compagnie, sono 24 e 2000 maschere. Si comincia alle 13, la conclusione intorno alle 18 con la premiazione davanti al municipio. Gli altri appuntamenti: a Pordenone si apre la rassegna Gemme Nuovi Orizzonti Musicali, che vedrà di scena all'ex convento di San Francesco il violinista pordenonese Nicola Di Benedetto e il pianista lombardo Roberto Arosio, programma con musiche di Frank, Vitali, Chrysler e De Sarasate alle 18. Uno spettacolo concerto per contrastare gli effetti sociali del Covid si intitola Fragili nuvole inquiete, lo hanno organizzato a Cervignano il Recreatorio San Michele Arcangelo e l'Università di Udine in collaborazione con il Folk Club di Butrio. Al Teatro Aurora alle 17.30 si esibiranno il cantautore e professore Pierluca Montessoro e un gruppo di musicisti professionisti: Arno Barzan, arrangiamenti e tastiere, Lorenzo Marcolina, clarinetto e sax, Hermes Ghirardini, percussione, e Francesco Sbiraglia alla voce. A Gorizia la rassegna Crocevie d'Europa, progetto turistico-culturale su storia e cultura locale, porta oggi alla scoperta dei luoghi di culto, punto di partenza e di arrivo, il municipio di Gorizia, all'inizio alle 14, la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, i riferimenti si trovano sul sito web del comune, alla pagina dedicata. E nel capoluogo isontino intanto un'iniziativa ha offerto un approccio conoscitivo sulla mobilità delle persone disabili attraverso l'audiobus. Ascoltiamo. La mia voce è sintetica ed è generata da un testo che leggo su uno schermo. Io non sono una donna, ma sono plasmata su un modello di voce tipicamente femminile. L'audiobus a Gorizia parte con una voce sintetica che non ci parla di monumenti, palazzi, stili architettonici, ma ci introduce ad ascoltare in cuffia le voci delle persone disabili, disabilità sensoriali, visive, motorie, cognitive, che ci spiegano il loro modo di vivere e di interpretare la città. La strada non la vedo, non percepisco. Sull'autobus la prima difficoltà è di vedere il numero davanti. Io non riesco ben a percepire quando finisce un marciapiede che inizia la strada. Sentiamo alcuni commenti tra i passeggeri che hanno viaggiato sull'audiobus. La tecnologia in realtà bisogna sempre immaginarla come un'estensione dei propri sensi, mai farsi dominare. Il progetto Mobilità Creative, ideato dall'Associazione Zero Idee in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Attiva Lab e APT Gorizia, oltre alla giornata isontina, propone e organizza viaggi e percorsi conoscitivi in tutta la regione. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli, Venezia Giulia. Particolare attenzione ai temi dell'inclusione anche da parte degli organizzatori della Marcia dell'Amore che si è svolta questa mattina a Pordenone. Più di 1.300 persone hanno partecipato questa mattina alla tradizionale Marcia dell'Amore organizzata dall'Associazione San Valentino di Pordenone, partenza alle 9 dall'omonimo Parco di San Valentino, in un percorso che si snoda tra le aree verdi della città. Bruno Bertin dell'Associazione San Valentino, qual è lo spirito dell'iniziativa? Lo spirito è proprio l'amore, difatti oltre diciamo le marciatori normali ci hanno accompagnato delle persone con disabilità ampliando proprio lo spazio di inclusione. A proposito di inclusione, questa mattina è stato anche inaugurato uno speciale visore. Di cosa si tratta? È un lettore per ipovedenti che ci è stato donato dai figli di una nostra consigliera che ci ha lasciato ed è la possibilità a uno diciamo che ci vede poco, è uno schermo che amplia la lettura e quindi a disposizione per tutti gratuitamente. Pordenone, Natascia Cargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12:21, passiamo al meteo, il cielo è da nuvoloso coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 14 gradi, Udine e Pordenone 14 gradi e mezzo, Gorizia 13, in area montana Tolmezzo 11 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 10 gradi e 5 decimi, a Sappada 7, Piancavallo e Tarvisio 6 gradi e mezzo, in quota sul Monte Zoncolan 3 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 5 decimi di grado positivi, sulla costa Lignano 13. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per questo pomeriggio: cielo da variabile a nuvoloso sulla costa, possibile qualche locale precipitazione debole, però giornata con temperature miti, dalla sera possibili foschie dense o nebbie su pianure e costa. Lo sport, cominciamo dalla pallavolo con la Coppa Italia femminile a Trieste. Ieri spettacolo in campo e sugli spalti del Pala Rubini nelle semifinali, oggi finalissima tra Conegliano e Milano, si gioca alle 14:15. In corso invece la finale della Serie A2 tra Perugia e Busto Arsizio, 2-0 per Busto Arsizio il parziale. Passiamo al basket in Serie A2 dove si sta disputando la fase orologio, segnale di ripresa per Trieste che a Cantù ha perso la quarta partita di fila ma stavolta lottando, mentre Cividale ha messo a segno un altro successo importante conquistando il campo di Treviglio. Ci ritroviamo con 4 punti che era difficile preventivare, ha detto coach Pillastrini, ma siamo ancora lontani dalle squadre che ci precedono e noi puntiamo ai playoff. Sentiamo il tecnico. Sono molto contento. Stagione difficilissima, durissima, siamo in piena bagarre, però intanto questi 2 punti in trasferta non era così facilmente pronosticabile, che dopo le prime 2 di orologio avevamo Trapani in casa e Treviglio fuori, uscire con 4 punti è una cosa che mi soddisfa, poi adesso ne abbiamo altre 8, quindi è durissimo, però intanto questi 4 li abbiamo presi. Calcio in Serie A, alle 15 allo Stadio Friuli va in scena Udinese-Cagliari, snodo cruciale sulla strada della salvezza, il successo di una settimana fa sul campo della Juventus che ieri ha pareggiato a Verona ha allentato un po' la pressione sulla squadra di Cioffi, che però chiede ai suoi maggiore continuità nei risultati positivi. Non ci sarà Capitan Pereira, i sardi arrivano da 4 sconfitte consecutive e sono penultimi a 4 lunghezze dall'Udinese. In Serie C anche la Triestina proverà a uscire dalla crisi alla Bardati alle 14 sul campo dell'Umbria. Mezzane, Bordin, che ha sostituito in panchina Tesser, non ha ancora fatto punti. Sulle nevi, pochissime in verità, di Nove Mesto si chiudono oggi i mondiali di biathlon con le 2 mass start. Alle 14:15 la prova femminile che vede Lisa Vittozzi tra le candidate al podio. La sappadina in questa rassegna ha già conquistato un oro e un argento individuali, oltre all'argento nella staffetta mista, e ormai il simbolo azzurro in questo sport. Qualche appuntamento culturale di oggi: Maria Cristina Errani presenterà il suo libro Oltre la malattia con la Divina Commedia, il viaggio dantesco di vera guarigione, a San Tommaso di Maiano all'ospedale di San Giovanni di Gerusalemme alle 18. Tra le pagine una guida per accompagnare alla rinascita di chi si trova a camminare per una selva oscura. Spettacoli per i bambini, si rivolge ai piccoli dai 6 anni in su, lo spettacolo Toma e Carolina, scritto e diretto da Giuseppe Di Bello, in scena a Tolmezzo, al Candoni alle 17, propone temi come il valore dell'amicizia, il rapporto con i genitori, la solitudine causata dalla tecnologia e l'educazione sentimentale. Attore Burattini animeranno il palcoscenico del Teatro Miotto di Spilimbergo con lo spettacolo Mago Magrino e gli animali magici in programma alle 17. La storia ripercorre il desiderio dei bambini di trasgredire le regole familiari e mettersi alla prova con se stessi. Le bolle di sapone si trasformano in favola animata Zoppola al Teatro Comunale con lo spettacolo Rime insaponate alle 16.30. Affronta il tema della diversità che spesso diventa una ricchezza la favola di Hans Christian Andersen, La Sirenetta, a Gorizia al Teatro Verdi alle 16. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano e Bruno Montevecchi, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. 12:25 minuti 30 secondi, prossima edizione del GR regionale, questa sera alle 18:30. Grazie per la vostra attenzione, ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.